ci sono problemi, almeno dal vostro comunicato si capisce che ci sono problemi sia nel metodo che nel merito. Comincerei dal metodo, perché voi dite che come dire, l'amministrazione fa un uso indiretto della ruspa salviniana. Cosa vuol dire? Ecco, diciamo che questa bellissima espressione che abbiamo tirato fuori sta a indicare il fatto che nell'incontro che abbiamo avuto con delle persone legate all'amministrazione, con gli assessori dell'amministrazione, ci hanno fatto intendere che la loro parte in questo gioco è quella di essere i buoni, tra virgolette, quindi loro non vogliono in qualche maniera sgomberarci, non vogliono arrivare a quella estrema razio, se vuoi, però, come dire, e si pongono quindi come buoni rispetto, come antagonisti rispetto ai cattivi che sarebbero le ruspe salviniane. Quindi loro provano a tenderci una mano, dall'altra ribadendo sempre che se non cogliamo questa opportunità è chiaro che poi si troveranno costretti a passare al piano B, che è quello degli sgomberi, che vediamo ormai attivi da mesi con più forza, con più prontezza da quando è stato firmato anche il decreto Salvini, ecco. È curioso anche che si, come dire, che si vendano come buoni, perché ricordiamo i vari sgomberi in città, da quello di Atlantide, di cui l'amministrazione ha una diretta responsabilità, a Crash, a La Ba, insomma ce ne sono stati diversi. E, un'altra questione di metodo che leggo dal vostro comunicato è che le proposte avanzate, poi ci arriveremo a discuterne, non vengono avanzate direttamente a voi, ma delle assemblee territoriali? Sì, ci hanno parlato di queste appunto assemblee territoriali che verranno in qualche maniera create, istituite per i vari quartieri o settori in cui hanno diviso la città, e in cui si discuteranno di questi spazi da assegnare. La cosa che un po' cioè, insomma, ci fa sorridere è che per l'ennesima volta provano a intraprendere un percorso che dichiarano pubblicamente varie volte come un percorso partecipato, un percorso in cui quasi uno vale uno, diciamo, no? In cui anche loro dovrebbero valere uno come noi, ma la realtà è ben diversa, perché come per i laboratori di quartiere, come per i laboratori di spazi, sono percorsi fintamente partecipati, in cui diciamo che le discussioni su cosa bisogna fare, quale sarà l'esito di queste assemblee, sono già state prese, le decisioni sono già state prese dall'alto, e quindi queste assemblee in qualche maniera dovranno veicolare o accettare quello che è già stato deciso. Del resto voi un passo in direzione dell'amministrazione in passato, in un certo senso, lo avete fatto quando c'era la questione dei bandi e della forma associativa. Voi avete rifiutato in realtà questo modello, che è un modello comunque gerarchico, verticistico, no? Quello di un'associazione, e avete dato vita ad ESA. Sì, esatto. Infatti in questo senso possiamo anche riconoscere che durante questa trattativa che si sta ancora svolgendo bisogna riconoscere un ruolo a quello che è stato quello che è stato svolto dal Comitato a tutela delle esperienze sociali autogestite in questi anni, perché dalla firma della convenzione per lo spazio del Civico 24, da quel giorno si è trovata un'altra strada da percorrere con le amministrazioni comunali per riconoscere e tutelare le esperienze autogestite come l'XM24 al di fuori, oltre la classica forma dell'assegnazione uno spazio con il bando a un'associazione. Quindi, nonostante, diciamo, le difficoltà che stiamo trovando in questa trattativa, perlomeno un punto saldo fermo che abbiamo portato a casa, diciamo, è che non per forza bisogna costituirsi in associazione per ottenere uno spazio in città, e questo è una battaglia, secondo me, vinta da XM, ma non solo da XM per XM, perché è una battaglia che rappresenta tutte quelle singolarità o realtà o collettivi che vogliono organizzarsi, vogliono autogestirsi, e in futuro potranno trovare anche quest'altro tipo di metodo. Ecco, nell'incontro di qualche giorno fa sono venute fuori, insomma, tre proposte per spazi alternativi che voi avete ritenuto inadeguati, però prima di tutto ti chiedo di raccontarci quali sono e poi perché non vi vanno bene. Sì, Allora, diciamo che appunto di questi spazi che verranno discussi in assemblee territoriali ci è sembrato di capire che alcuni sono più plausibili per una nostra futura destinazione. Questi tre spazi sono: uno, la ex banca che si trovava in via Fioravanti 22, che si tratta di una sede di uffici con poche stanze, che quindi capisci anche tu che rispetto ai 1600 mi sembra solo di pian terreno di XM24 e oltre, è difficile ospitare tutte le attività e i laboratori che facciamo lì dentro, dalla sala prove fino a una cucina, fino a una palestra, o anche solo la sala dove facciamo le assemblee. Quindi è uno spazio veramente molto piccolo, invito tutti e tutte ad andarlo a vedere, ma al di là di questo è uno spazio che tra l'altro era stato animato da XM anche tempo fa, e al massimo può essere uno spazio che può aggiungersi a quello che già utilizza XM, ma non credo sia assolutamente adeguato per sostituire lo spazio in cui si trova adesso XM. Un altro spazio si trova invece in via Corticella, abbastanza inoltrata, l'ex centrale dell'arte per capirci, ed è uno spazio che chi di noi è andato a vederlo, definirlo inagibile è poco, perché adesso te la butto là con un'immagine, ma sei presente Jumanji quando viene impestato quando la casa viene impestata da piante, arbusti e diventa una giungla? Più o meno il livello è quello, nel senso ci troviamo di fronte a uno spazio con metri quadri un po' più ampio dell'ex banca, con anche un giardinetto, una aiuola, ma lo stato dell'immobile è veramente a pezzi, con un tetto fatto di piante, ecco. Quindi è parecchio, la situazione lì in quel caso è anche abbastanza pericolante, ecco. Infine l'ultimo spazio che ci è stato proposto è il capannone dove, cioè in questi mesi è stato ospitato il Link, cioè dove si trova il Link, che probabilmente quindi non verrà più a trovarsi in quel luogo, e quindi ci troviamo in tutt'altro quartiere. Cioè qui la presa in giro è anche più grossa, perché noi più volte nei nostri comunicati, nelle sedi di trattative, abbiamo rimarcato il fatto che per noi è vitale trovarci nel quartiere bolognino, è vitale trovarci in un quartiere abitato, perché le nostre attività vanno avanti con le persone del quartiere che le animano, quindi o sono rivolte alle persone del quartiere. Quindi andare a finire in tutt'altro quartiere come quello del Link, così tanto distanti da qualunque zona abitata, è parecchio paradossale. In più, tra l'altro, la presa in giro si fa ancora più assurda, perché lì accanto a un 500 metri ci troveremmo vicino, come vicino di casa, Fico, Italy World, che insomma questo parco farinettiano che doveva rappresentare un po' la svolta per questa città e per questo PD, invece sappiamo che non hanno avuto tutta questa fortuna come speravano, come millantavano, e non vorremmo insomma essere noi in futuro a dover rinverdire la situazione poco, poco felice di quell'esperienza, che tra l'altro da essere un portavoce, una cassa di risonanza del renzismo, ora si sta trovando ad ospitare persone più affine a Salvini, penso a Mauro Corona o a Bennato, ecco. Torno un attimo sulla prima ipotesi, quella di via Fioravanti 22, perché qualcuno del Partito Democratico vi aveva definiti incompatibili col quartiere, e quindi spostandovi solo di un numero civico non si capisce, insomma, questa retorica viene a cadere. Sì, infatti, perché cioè molte volte il discorso che era stato portato avanti era dell'impatto assolutamente negativo che avevamo nei confronti del vicinato, cosa che noi abbiamo smentito più volte raccogliendo firme o raccogliendo testimonianze dai nostri vicini di casa, e appunto veniva fuori che la nostra presenza lì era sgradita proprio perché eravamo molto vicini a contatto con abitazioni o situazioni dove vivevano delle persone che magari potevano essere disturbate dalle nostre feste e tutti quei discorsi legati al rumore, al degrado e al disagio che secondo loro, a detta appunto dell'amministrazione, provochiamo come XM. E quindi chiaramente spostarci di un solo numero civico sembra assurdo, cioè va proprio in controtendenza, va a contraddire quelle che erano state le loro dichiarazioni di mesi e mesi, in cui dicevano comunque voi da lì ve ne dovete andare perché il rumore, perché il degrado, perché non va bene che state lì. Ecco, se tre sono state le proposte che voi appunto ritenete inadeguate, tre sono anche le strade che indicate per appunto proseguire. Quali sono? Sì, diciamo che abbiamo discusso in assemblea di quale poteva essere la risposta da dare a questo incontro avuto col comune, e sicuramente una prima risposta è quella di Noi ci siamo sempre detti aperti al dialogo, ad ascoltare le proposte, ma francamente, visto quello che ci avete proposto, facciamo un altro tentativo, perché non, come dicevi anche tu, sembrano abbastanza, cioè sono abbastanza inadeguate l'attività di XM, perché per tutte le attività che ospita sono spazi o troppo piccoli o pericolanti o situati in una zona completamente diversa dalla città, che quindi snaturerebbero quella che è l'attività di XM in un quartiere come la Bolognina. E la seconda delle strade da percorrere è quella di abbiamo deciso insieme in assemblea di prendere parte, quindi di partecipare a queste assemblee territoriali che ci hanno proposto, che avverranno probabilmente con l'inizio dell'anno nuovo, e parteciperemo in maniera critica, perché al di là, come dicevamo prima, del metodo partecipativo che si può mettere, che si può anche contestare nella sua forma poco partecipativa, in effetti quello che vogliamo contestare è anche questa situazione per cui si viene a creare una sorta di competizione, una competizione meritocratica tra le varie realtà associative o meno che si trovano a operare in Bolognina, come se alcuni fossero più meritevoli di altri, come se l'esperienza XM possa venire paragonata all'esperienza di un'altra associazione che fa tutt'altro, che, cioè, rispetto per le altre associazioni, rispetto per le altre realtà che operano in Bolognina, ma metterci tutti sullo stesso piano o addirittura farci rivaleggiare per ottenere un posto è tutto perché è un metodo partecipativo o quella che potremmo definire un'assemblea territoriale. Ecco. Non solo, abbiamo deciso di partecipare in maniera critica perché tenteremo di far rete all'interno di queste assemblee territoriali con tutte quelle soggettività o quelle realtà che vorranno starci, quindi rimarcando, appunto, come dicevamo anche prima, la differenza tra quella che da loro viene definita partecipazione, quello che è il loro modello di partecipazione, che dimostrano per l'ennesima volta con questi avvisi pubblici e queste assemblee territoriali in cui già tutto è deciso e scritto, confrontandolo invece con quello che è il nostro modello di partecipazione, di autogestione, che non può essere assolutamente addomesticata, non può essere assolutamente già decisa o veicolata verso un fine stabilito. Ecco. L'ultima strada è quella di creare parallelamente un percorso dal basso, allargato a tutti quei singoli, in realtà, collettivi, associazioni che saranno interessate al percorso, per ridiscutere di quegli spazi sempre più necessari per il periodo che stiamo vivendo, non solo a Bologna, sempre più necessari perché servono spazi di confronto sociale e politico, servono spazi aggregativi, servono spazi per far sport, per far socialità in Bolognina come ovunque a Bologna e nel mondo, e quindi cercheremo di fare un percorso dal basso, veramente dal basso, autogestito, con un'assemblea che sarà orizzontale nel vero senso della parola, e cercheremo di rimettere in discussione il discorso della necessità di spazi, di quali sono gli spazi vuoti che potrebbero essere interessati ad alcune attività e di quelli che già ci sono, come appunto il nostro. E quindi tenteremo di riaprire con un percorso alternativo delle vertenze su degli spazi che non vengono neanche considerati dal comune.